Hadith numero 14 da Ibn Mas'ud, che Allah si compiaccia di lui, disse: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non è lecito il sangue di un uomo musulmano se non per uno di questi tre motivi: l'adulterio del coniugato, l'omicidio volontario, l'apostasia di chi si separa dalla comunità, riferito dall'imam al-Bukhari e dall'imam Muslim.